Insomma, è la terza volta che cancelliamo. E basta. Vabbè, comunque dura troppo queste qui. Bisogna rifarlo assolutamente. No, non è che dura troppo. È che le canzoni sono lente. Le canzoni sono praticamente lente. Dovrebbero essere 2 minuti l'una. 2 minuti 8. No, 2x4 fa 8. Ma veloce bene. Noi stiamo andando lenti. Infatti, però, scusa, ma di cosa stiamo parlando? Ma io ne ho bevuto almeno 2. Ma noi stiamo parlando delle pie. Voi state parlando ancora della mano di Dio. Ma non è vero. Ok, dice io di è troppo. Tagliamo 2 pezzi di qua e di là. Tagliamo la solo chitarra. Che non si interessa. Allora io ho sempre detto che le pie deve durare meno di un sofocone. Allora non è vero. Quindi vabbè, dipende. 9 minuti. Ma 9 minuti. Ciao. Un paio di minuti. Comunque 2 minuti per ogni canzone. Allora bisogna. Non più di 8 minuti. 8 minuti. No, vero, ascoltami. Bisogna rifarlo. Bisogna rifarlo tutto da capo. Anche secondo me. Se vuoi farlo più veloce devi ricantarlo. Devo ricantare. Devi ricantarlo tutto. Ma mi posso cantare sempre, ma siete cretini?